Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Da una ventina di giorni, tutti quelli che andavano per via frettolosi e sopra pensiero si voltavano, si fermavano a mirare un vecchiotto nodoso e ferrigno con un piccolo zaino sulle spalle, quattro medaglie al petto e un cappellaccio nero da cui scappava un arruffio di peli, i gialli cernecchi confusi col barbone lanoso abbattuffolato. Camminava quel vecchiotto come in sogno. Gli occhi lustri, ilari e lagrimosi, senza alcun sospetto della sua straordinaria apparizione per le vie e le piazze di Roma, in quella comica acconciatura e con quella goffa aria di selvaggio intenerito. Ma, lasciati a Balsania il berretto villoso, gli scarponi imbullettati e il fucile, indossato il vestito nuovo di panno turchino e sotto alla ruvida camicia d'albagio violacea, un'altra camicia di tela che gli sovrabbondava bianca e floscia dal collo e dal maniche, con quel cappellaccio nero e le scarpe pulite, Mauro Mortara era sicuro d'essersi acconciato da compito cittadino. La giacca, sì, aveva sui fianchi certi rigonfi, ma le pistole, quelle aveva fatto voto di non lasciarle mai. Le quattro medaglie poi che gli si intravedevano appese alla camicia d'albagio lì sul petto se le era portate, chiestane licenza al generale, unicamente per dimostrare che era degno di passare per Roma, che s'era meritata la grazia e guadagnato l'onore di vederla. Tutti i documenti erano dentro lo zaino. Come avrebbe potuto supporre che quelle medaglie a Roma, attufata d'odio e tutta imbrattata di fango in quei lividi giorni, dovessero chiamare sulle labbra un ghigno di scherno, diventata quasi titolo d'infamia la qualifica di vecchio patriota. Senza il più lontano sospetto che ridessero di lui, Mauro Mortara rideva a tutti coloro che gli ridevano in faccia, credendo che partecipassero alla sua gioia, a quella sua gioia rigata di lacrime che quasi grillandogli attorno come una luce gli abbagliava ogni cosa. Non vedeva altro di Roma che questa sua gioia di esserci, e tutto in quella fiamma d'allucinazione gli si presentava magico e vaporoso, e non sentiva la terra sotto i piedi. 3-4 volte nell'allungare il passo gli era venuto meno il marciapiedi e per poco non era ruzzolato. Andava come ebro, senza meta, smarrito, annegato nella sua beatitudine. E appena gli si fantasmeggiava davanti un aspetto grandioso, giù altre lacrime dagli occhi gonfi di commozione. Lando Laurentano avrebbe voluto dargli una guida. Ma che guida? Non voleva saper nulla, non voleva che gli si precisasse nulla. Temeva istintivamente che ogni notizia, ogni indicazione, ogni conoscenza anche sommaria, gli rimpicciolisse quella smisurata, fluttuante immagine di grandezza che il sentimento gli creava. Roma doveva rimanere per lui come il mare, sconfinata. E ritornando la sera, stanco e non sazio, al villino degli Assomma Campagna dove Lando abitava, alle domande se avesse veduto il Colosseo, il Foro, il Campidoglio, ho visto, rispondeva in fretta. Non me ne dà niente, ho visto. Era lui davvero, Mauro Mortara, a Roma. Respirava proprio lui lassù, quell'aria di Roma, toccava proprio lui, coi piedi il suolo di Roma, vedeva lui tutte quelle grandezze? O era un sogno? Ah, si potevano chiudere ora gli occhi suoi dopo tanta grazia? Veduta Roma, avevano veduto tutto. Posta la sua firma nel registro del Pantheon, alla tomba del re, poteva morire. aveva dato atto di presenza nella vita, risposto all'appello della storia. Alla scorsa avanzano sei di gioia, di meraviglia, di entusiasmo e di soddisfazione alle ingenue considerazioni di Mauro sulla grandezza della patria, Lando Laurentano, benché pieno in quei giorni di sdegno e di nausea, non aveva mai replicato. Aveva trattenuto il sorriso anche quando il suo caro vecchio, una di quelle sere, era entrato ad annunziargli ancor tutto esultante: «Ho visto il re! Ho visto il re!» «Ah, oh, povero figlio mio, come avrei potuto mai crederlo? Tutto bianco, bianco come me! E chissà quando gli costa sedere lassù! Quanti pensieri! Il palo è lui, e c'è poco da dire, il palo che regge tutto! E sapete, m'ha salutato! Se la carrozza andava più piano, mi buttavo in ginocchio, come vero iddio!» Sentirsi in petto per un momento quel cuore, aveva pensato con tenerezza e con invidia Lando Laurentano, potere con quella stessa fede, con quella stessa purezza di intenti, nutrire un sogno, un più vasto sogno, affrontare per esso più aspre lotte e vincere, per godere poi una gioia più pura e più grande di quella. Come per rintemprarsi e lavarsi lo spirito di tutte le sozzure vomitanti in quei giorni dalla vita nazionale, s'era immerso nei discorsi di quel vecchio. Strambi, sì, ma vero lavacro di purezza e di fede. La sua vista, la sua presenza a Roma in quei giorni, gli facevano apparir più sozzi, più turpi, tutti coloro che della fortuna insigne d'esser nati in un momento supremo e glorioso s'erano avvantaggiati come ingordi mercanti e ladri speculatori. Calmo e freddo in apparenza, Lando Laurentano covava in segreto un dispetto amaro e cocente del tempo in cui gli era toccato in sorte di vivere. Dispetto che non si sfogava mai in invettive o in rampogne, sapendo che, quando anche avessero trovato eco negli altri, come ne trovavano difatti quelle dei tanti malcontenti in buona o in mala fede, non avrebbero approdato a nulla. Aveva dato il suo frutto il tempo. E lui era venuto a vendemmia già fatta. Il mosto generoso e grosso raccolto in Sicilia con gioia impetuosa, mescolato con l'asciutto e brusco del Piemonte, poi col frizzante aspretto di Toscana, raccolto tardi e quasi di furto nella vigna del Signore, mal governato in trettini e nelle botti, malconciato ora col tiglio e con l'allume, s'era irrimediabilmente inacidito. E da sterile, per forza, la sua, come tutte quelle che succedono a un tempo di straordinario rigoglio. Bisognava assistere, tristi e inerti, allo spettacolo di tutti coloro che avevano dato mano all'opera e volevano ora essere soli a darle assetto. Alcuni, tuttavia, sovreccitati e quasi farneticanti, altri, già lassi, e crogiolantisi con senile sorriso di sufficienza nella soddisfazione di un'ardua fatica comunque terminata, di cui non volevano vedere i difetti, né che altri li vedesse. Ah, in verità, sorte miserabile quella dell'eroe che non muore, dell'eroe che sopravvive a se stesso. Già, l'eroe veramente muore sempre, col momento. Sopravvive l'uomo e resta male. Guai se non scoppia l'anima con veemenza, investita da quel vento propulsore che la gonfia, la sforza e le fa assumere a un tratto una terribile maschera di grandezza. Dopo quello sforzo, caduto il vento, l'anima violentata non sa, non può più ricomporsi nelle sue naturali proporzioni, non trova più il suo equilibrio. Qua ancora abbottata e intumidita, là floscia, ammaccata, casca da tutte le parti, e come un pallone in cui si sia consumato lo stoppaccio, incespica e si straccia in tutti gli sterpi della via dianzi sorvolata. Lando Laurentano non sfogava il dispetto, perché non avendo potuto prima per l'età, non potendo più ora per l'inerzia dei tempi far nulla, sdegnava come troppo facile dir che gli altri avevano fatto male. Fare, ecco, poter fare, senza punte parole, avevano fatto gli altri. Ora era il tempo delle parole. Ne facevano tante gli altri, inutilmente, che egli poteva ben risparmiare le sue. Vedeva che coloro a cui era stato dato di fare s'erano dibattuti a lungo tra due concezioni, una vacua e l'altra servile, quella di un'Italia classica e quella di un'Italia romantica. Non poteva l'Italia farsi in altro modo. Segno che non erano ancora ben maturi gli eventi, o che erano mancati in alcuni l'energia e l'ardire per secondarli. Troppi calcoli e riflessioni ombrose, e tentennamenti e scrupoli, e ritegni e soggezioni avevano mortificato la creazione della patria. Che fare adesso? Per chi vuole, sì, è sempre tempo di far bene, ma un bene modesto, umile, paziente. Lando Laurentano sentiva che non era per lui. Gli avevano offerto nelle ultime elezioni generali la candidatura di uno dei collegi di Palermo. Né preghiere, né pressioni, né richiamo alla disciplina del partito erano valsi a farlo recedere dal rifiuto. Lui a Montecitorio in quel momento. Meglio affogarsi in una fogna. Certe notti, rincasando, oppresso dalla più cupa noia, aveva così forte l'impressione di andare a ritrovare nella solitudine del suo villino il proprio spirito, che non se n'era mosso e che lo avrebbe accolto dallo specchio con atteggiamento di scherno e gli avrebbe domandato se fuori faceva bel tempo, se c'era la luna, se qualche lampada elettrica non si fosse per caso stizzita lungo la via, o se San Paolo, stanco di stare in piedi, non si fosse messo a sedere sulla colonna Antonina. Così forte aveva questa impressione che tornava indietro per lasciar fuori la propria persona e non presentarla a quella derisione. Eccola, eccola lì. La sua bella persona, ben curata, ben lisciata, azzimmata. A chi se la voleva prendere a quell'ora di notte? Si fermava un po' per sentire intorno a sé il silenzio notturno. Beh, gli pareva che questo silenzio si profondasse nel tempo, nel passato di Roma, e diventasse terribile. Un brivido lo scoteva. Gravava quella notte su una città di mille e mille anni, per cui egli passava ombra vana e minima che un lieve soffio avrebbe spazzata via. Da questi momenti non rari lo richiamava in sé ogni volta, accorrendo da Palermo senza invito e sempre in punto, un amico, forse il solo che avesse sincero, Lino Apes, direttore della Nuova Età, Socrate, come egli lo chiamava. E di Socrate veramente Lino Apes aveva l'umore e la bruttezza. Alto, tutto collo e senza spalle, con le braccia scimmiesche che gli scivolavano fin quasi ai ginocchi, la fronte sfuggente, il naso schiacciato e certi occhi ilari e acuti che ridendo gli lagrimavano, quasi nascosti dalle folte sopracciglia spioventi. Poverissimo, con incredibili stenti superati allegramente, s'era mantenuto da sé agli studi fino a laurearsi in lettere e filosofia. Senza ambizioni di sorta, s'adattava a insegnare a suo modo in un ginnasio inferiore, con molto godimento dei ragazzi e con molto struggimento del direttore, che non osava muovergli alcuna riprensione. Passava il resto della sua giornata sperperando nella conversazione l'inesauribile ricchezza delle idee che, dopo un lungo giro, gli ritornavano appena appena riconoscibili, ciascuna col marchio della sciocchezza o della vanità di chi se l'era appropriata. Riceveva da lui, in quei giorni, lettere su lettere, e ognuna, con ago ostile, lo pressava ad accorrere in Sicilia. Tutti i galli nelle aie bruciate non avevano avuto mai così rossa e così irta la cresta. Né mai più spavaldo avevan lanciato nei campi il loro grido a salutare il nuovo sole che per la prima volta dopo una notte di secoli sbadigliava nelle coscienze dei lavoratori. Coscienze? Ah, per modo di dire. Alla chiesa avevan sostituito il fascio e aspettavan da questo tutti i miracoli supplicati invano da quella. Ma il fanatismo era al colmo e dunque possibili i miracoli e facile il compito dei taumaturghi. La piena stava per irrompere e in quel momento avrebbe potuto travolgere le impure sedi del dominio borghese, ora senza presidio di soldatesche. Bisognava accorrere e agire prima che la Sicilia fosse invasa militarmente e la reazione cominciasse. Lando fremeva, ma non sapeva staccarsi da Roma in quel momento. Lo scandalo bancario era come una voragine di fuoco aperta davanti al Parlamento nazionale. A una, uscendo di là, le putride carcasse del vecchio patriottismo vi sarebbero precipitate. E quel fuoco, divorandole, avrebbe purificato la patria. Lo spettacolo era allegro nella sua oscena terribilità. Ma forse non sarebbe stato tale per Lando se in quella voragine non avesse aspettato con ansia feroce uno, Corrado Selmi. Ah, finalmente! Già lo vedeva come un albero mezzo sfrondato all'appressarsi della lava. Forse anche prima d'esser toccato dal liquido di fuoco vorace sarebbe sparito in una stridula vampata. E Lando sperava che il suo spirito si sarebbe rischiarato a quella vampata. Per un momento almeno, il male che quell'uomo gli aveva fatto non era più rimediabile. Gli aveva per sempre ottenebrato la vita, tolto per sempre la speranza di volgersi, di raccogliersi a colei che nella prima giovinezza gli aveva fatto intendere l'eternità in un attimo di luce. Luce sfavillante da due occhi neri e da un vanente sorriso. Una sera di maggio, lungo la marina di Palermo, illuminata tra il fragor delle vetture, l'odor delle alghe che veniva dal mare e il profumo delle zagare che veniva dai giardini. Per il divino ricordo incancellabile di quest'attimo, si sarebbe certamente riaccostato alla cugina, appena senza rimorso, senza profanazione, almeno dal suo canto. Morto il vecchio marito, avrebbe potuto far la sua di nuovo. Ben per questo l'aveva respinta, quand'ella, in quel momento di follia, aveva voluto con rabbiosa disperazione aggrapparsi a lui. E quell'uomo, vigliaccamente, ne aveva approfittato. No, non poteva allontanarsi da Roma in quel momento. Ora, chiamato con tanta premura da ben altre ragioni in Sicilia, quella per cui Mauro Mortara era venuto non poteva non sembrargli una grottesca irrisione. Pensò che non certo per il piacere di vederlo lo si voleva presentare a quel festino di nozze, ma per una diffidenza del salvo che l'offendeva. E per sbarazzarsene decise di scrivere a costui una lettera che lo rassicurasse pienamente e per cui quel matrimonio potesse aver luogo senza il suo intervento. Due giorni dopo la spedizione di questa lettera, gli arrivò all'orecchio la notizia del salvataggio scandaloso del Selmi tentato dal governo. Sentì rompersene lo stomaco in un furioso ribollimento di sdegno e decise di partire subito per dar fuoco alle polveri preparate in Sicilia. La mattina dopo, mentre parlava con Mauro Mortara della partenza imminente, gli fu annunziata la visita del cugino Giulio Auriti. Mauro era andato due volte a casa di Roberto in via delle Colonnette e non l'aveva trovato prima di partire avrebbe voluto almeno salutarlo. Non conosceva Giulio, avendolo veduto 2 o 3 volte soltanto da ragazzo. Diede un balzo appena lo vide entrare nella stanza. «Don Stefano!» esclamò. «Figlio mio, Don Stefano nelle forme! Tutto lui, la stessa faccia, lo stesso corpo!» Ma notando che il giovine, nell'esagitazione a cui era in preda, gli restava dinanzi con fredda e accigliata perplessità, «Non sapete che sono io, eh?» aggiunse. «Sono Mauro Mortarala. Muoio qua, tra queste braccia vostro padre, con una palla in petto, qua sotto la gola. Aveva il collo il fazzoletto e una cocca gli era entrata nella ferita. Non poteva parlare. Con codesti vostri occhi, nell'agonia, mentre lo sorreggevo, mi raccomandò il figliuolo, vostro fratello, che io scostavo col gomito, coprendo con tutta la persona il corpo di vostro padre caduto, per non farglielo vedere.» Giulia uritisi per me, forte le mani sul volto, e scoppiò in singhiozzi. Lando, conoscendo la rigida tempra del cugino, il dominio freddo che aveva di se stesso, si voltò a guardarlo, turbato e costernato. Gli si accostò, gli posò una mano sulla spalla. «Giulio, avreste fatto meglio a lasciarglielo vedere», disse allora questi, rivolto a Mauro, riavendosi di un tratto al richiamo. Gli sarebbe rimasto più impresso. Era troppo piccolo. E piccolo è rimasto. Piccolo e cieco. «Ho da parlarti», aggiunse poi, rivolgendosi a Lando, e con la mano si strinse gli occhi, quasi per portarne via ogni traccia di pianto. Mauro non intese, non comprese nulla. Con gli occhi fissi nella lontana visione della battaglia, scosse il capo a lungo e sospirò. Bella morte, può piangerla un figlio, ma a pensarci è una festa. Una festa era per noi morire. E che morte faremo adesso? Vecchi, sporcheremo il letto. Basta. Io me ne vado. È in casa Don Roberto. Voglio andare a salutarlo. Ho visto Roma, però. E anche in un canto, mangiato dalle mosche, posso morire contento. Fece con la mano un gesto di noncuranza e se ne andò.